Luca, buonasera. Ciao Luca, passare sicuramente. Scusami che non ti ho sentito, è avuto il volume basso. Ho detto da Sassari sicuramente dal segnale. K fino via l'Italia. Arrivi bene. Per me non è una zona positiva quella, però sicuramente sei in alto, la zona alta. Eh sì, l'antenna è sul tetto, al sesto piano. E il tuo QTH dove? Io sono qui a zona Sacro Cuore, quindi molto basso. Ah vabbè. Sì, no, già esco bene da qua. C'ho tutta la Nurra a vista, per cui non ho palazzi davanti e io esco bene sicuramente. Ma anche tu mi arrivi bene. Sì, no. Luca Franco, da parte mia. Sì, beh, ci siamo vicini, siamo a Sassari. Però in lontananza perdo un sacco, perché l'antenna non essendo sul tetto, perdo parecchio. Eh sì, io avevo prima la magnetica sul terrazzino perché ho ordinato l'antenna per il tetto, ci ha messo più di un mese ad arrivare dalla Germania perché sono capitato in mezzo alle feste di Natale. Dopodiché l'ho installata sul palo che avevo 25-30 anni fa, quando avevo la Mantova 1. La Mantova era sparita, non so che fine gli avessi fatto fare, ma il palo era sempre lì, per cui ho aspettato che mi arrivasse questa antenna dalla Germania, l'ho messa su al volo e mi sta riprendendo il morbo della frequenza. Aspetta che abbasso un po' di... tanto siamo vicini, scendo un po' di potenza, dai, tanto non ci serve. Poc'anzi provavo un po' di DX. Quindi adesso che antenna è ordinato dalla Germania? La Albrecht 6348 è una mezza onda di 6320. Hai già avuto modo di collaudarla anche a distanza? Sì, è venuto un amico che l'ha provata insomma su intanto con un analizzatore, ha visto che andava bene, non aveva rosse eccetera, e poi ha provato frequenze più alte, più basse, e ha fatto dei collegamenti, non col mio Alan 48 che insomma è quello che è, però quando è venuto lui ha provato il suo e mi ha detto che esce bene, che funziona bene. No, va benissimo, per me, dalle parti mie arrivi benissimo, ripeto, non è una zona favorevole per me, ma tu hai l'altezza a tuo favore, quindi sicuramente ti avevi ascoltato bene anche con la magnetica. Vabbè, la magnetica era, perché avevo una magnetica con lo stilo da 1,20 m, 1,5 m, quant'era, in acciaio, ma si era spezzato non so quanto, quindi usciva male e mi dava rosso. Allora al volo ho comprato da AliExpress un'antenna per la 27 magnetica che è alta 32 cm, che non pensavo neanche esistessero, essendo io sparito dalla frequenza da più di 20 anni. Un giocattolino da niente, l'ho messa sulla ringhiera e comunque su Sassari uscivo. Certo, non uscivo col segnale 9, ma comunque uscivo e mi si sentiva. Sì, no, sei in un campo libero, non dico un pezzo di filiferro, ma quasi, e ti ascoltano. Una bella zona lì, qui in Italia, sei aperto. Un 48 adesso mi hai detto. Io storicamente allora avevo un Intec 3230 che era veramente bellino, con frontalino estraibile tipo autoradio, e l'avevo data a un collega che guida, che io lavoro in un'azienda di trasporti, non guido, ma l'avevo dato a un collega che poi è andato in pensione, tanto io non lo usavo più. Ora che ho trovato un amico che è patentato, per intenderci, mi ha detto: ma perché non rientri? Guarda che sulla 27 si stanno facendo delle chiacchierate, la sera bene o male qualcuno c'è sempre, e dai rientra. Allora ho chiesto ai miei colleghi camionisti che fine avessero fatto i loro CB, e tutti ce li avevano buttati in garage, e mi hanno regalato un Alan 48, un Alan 78 Multiplus e poi un President Bill piccolo senza neanche il rosmetro, e me ne hanno dato tre. E quindi sei andato bene, dai. Anch'io ho un stato la risposta, anche questa è una radio che c'ha 40 anni, degli anni 80, infatti gli anni 80, sì. Però da poco l'abbiamo un po' messa in linea, che un po' scivolava di frequenza, sembra che vada bene. Eh beh, caspita, è pulitissima. Beh, il microfono, questo è anche un microfono, all'epoca era costoso, oggi non si trova più, è un microfono americano della Shure. E la Shure conoscevo, le puntine del giradischi. Anche, ma non se le facciano ancora, eh. Da poco una l'ho comprata, però non è Shure per il piatto, dai. Sì, beh, le Shure erano nominate come buone, i DJ che avevano i Technics 1200 che scresciavano, eccetera, pubblicizzavano quelle puntine lì. Sì, ricordo, anche il mio, anche io ho un Technics come piatto, anche, beh, quello è tutto Technics, tranne un lettore, mi sembra, CD, quello della Sony, perché si era un po' consumato il lettore, e quindi piuttosto che ripararlo ne ho preso un altro, ho speso sicuramente di meno. E anche io ho la collezione delle marche, c'ho tutto assemblato, il lettore CD, c'ho un Philips, perché allora Philips era quello che aveva brevettato il CD, l'aveva inventato lui, e io l'avevo subito preso, poi piano piano sono usciti i modelli nuovi, multilettori, sistemi sicuramente copiati e migliorati, però insomma è affidabile, va bene. Poi come cazzo ho preso delle JBL, sempre americane anche quelle, un po' si rovinano la parte pneumatica, si rovina, intanto bisogna ripararle, purtroppo è così, oggi le fanno male in altri materiali, in foam e compagnia bella, invece proprio quelle buone buone dopo un po' ci marciscono, devi cambiarli. Io sono della Polk Audio, è una marca sconosciuta, ma sono, diciamo, quelle che ti danno, cioè che puoi gestire con molti watt, ma sono piccole, sono pesantissime ma piccole di dimensioni, sono da studio. Vabbè, dai, fuori. Oggi lo spazio è quello che è, siamo pieni di roba in casa, però mi è sempre piaciuto avere un buon impianto, dai. Allora, le poche volte che l'ascolto la voglio ascoltare bene la musica. Se non bussano quelli del piano di sotto. Ma non sono case recenti, quindi sono mura da 60, sono molto, molto alte, sono fatte bene, non come quelle di oggi che sono fatte 2,70 m. Una volta stavo montando un mobile, sono andato a metterlo in piedi e non riuscivo a metterlo in piedi perché toccava su. L'ho dovuto piazzare già in piedi e assemblarlo con una chiave a brua da sopra. Una vergogna, le case di oggi sono piccolissime. Ma dove abito io, il palazzo ha 50 anni, perché è del 75. Sì, l'altezza interna dell'appartamento è 2,70, l'altezza minima di civile abitazione. Però le pareti sono in forattini, per cui sì, io di notte riesco a sentire quello del piano di sotto che russa. Pensa tu, va bene che russa come un demonio, però... No, queste sono più datate. Questa zona sicuramente le avrà fatte Mussolini, sono fatte con blocchi di trachite, ripeto, sono muri a 60, non va, difficilmente si sente qualcosa, ma non che è proprio, non si mette la gridare forse, però non si sente nulla. Poi da quando ho messo anche le finestre con vetricamera, a volte non si sente neanche il temporale gira. Le finestre io ho gli infissi in legno originale di quando è stata comprata la casa e i vetri erano quelli da 4 mm che si infilavano a ghigliottina dall'alto e allora ho comprato l'attrezzo della Black & Decker, ho rifilato intorno, ci ho messo dentro il vetrocamera e una cornicetta in legno fuori e le ho modificate io e l'insonorizzazione è cambiata tantissimo, anche la resa termica, ma soprattutto l'insonorizzazione. Beh, c'è già qualcosa, mai non avrei tutte le guarnizioni nelle battute e cose varie, però non sarà da 10 cm di spessore, però già hai fatto qualcosa di buono. Anch'io prima avevo quelle lì, con quei vetri, come dici tu, a infilare la ghigliottina. No, qui siamo sui 3,5 m come altezza, 3,05, quindi figurati ogni spreco. E lì è anche spreco termico, perché l'aria calda se ne va sempre verso l'alto, e quindi a scaldarla ci vuole un po' di più. Qua siamo più compressi. Sì, diciamo, io scaldo i piedi a quella alla tipa che c'è sopra di me, dai. Sì, io oggi, facendo i lavori oggi, avrei abbassato la volta, cioè avrei portato tutto a 2,80, dai, una cosa del genere. Però ormai il lavoro è fatto, gli infissi sono stati già cambiati, quindi dovrei cambiare tutto, quindi ormai rimane così. Io sto parlando, ma nel frattempo sto anche saldando un PL. Fai tranquillo. Io intanto accendo qua, faccio un po' di pulizia, una polverata, una scaldatina alle valvole, come si dice. Per pulire il carburatore. Allora. Senti gli stranieri sotto? Io li sento leggermente perché, ripeto, l'antenna è sulla finestra, è del primo piano, quindi non sono in alto. Poi un'antenna anche autocostruita. E vanno al vento. Dimmi se cambia molto la radio. Hola. Sì, era più chiara prima. Ma fa schifo proprio, perché questo è un microfono che ho preso. Non dico a 2 lire, a 10, neanche, forse neanche 10 euro. No, schifo non fa, non avendo sentito prima, noto la differenza. Ma può andare, se c'è anche l'eco, aspetta un po', dovrebbe avere anche, così ha un po' di eco. Sì, positivo. Va meglio o va peggio con l'eco? A me l'eco non piace, però forse è appena più chiaro, ma è regolabile l'ampiezza dell'eco. No, sento una carica, no. Così a metà. E così dovrebbe essere al minimo, non ha altre regolazioni. Posso regolare da dentro, l'eco c'ha dei trimmer dove puoi regolare qualcosa, sicuramente la ripetizione, non mi ricordo. Però devi smontarlo praticamente per regolarlo. A me è soggettivo, a me non piace l'eco. Messo al minimo dove si sente appena è buono, è accettabile e rende la radio migliore. Così al minimo, vai, dovrebbe esserci un leggero reverbero. Rimettiamo il suo che è meglio, dai, il suo, oddio, quello che usa sempre, quello da tavolo. E questo è tutta un'altra cosa. Io avevo il microfono da tavolo, uno ZG, quello con un pomello solo, il più 5 forse, Turner più 5. Avevo un pomello solo grigio e poi l'ho dato via, l'ho regalato. Quando ho regalato tutte le cose mie da CB, quando pensavo che non l'avrei più utilizzato. E quello era l'MB più 5 o l'MB più 4 della ZG. E anche quelli, uno l'ho avuto, però preferivo questo, Forse sono in banda laterale questi. Sull'11 c'è, sento un sacco di propagazione, sui canali 11. E allora mi sposto e voglio sentire. Prova, tu li sentirai i furti. Eccoci qua. Presente? Eccoci qua. Hai visto? Io infatti ero andato sull'altro, non mi ero accorto che eravamo là, che ero convinto fossimo su questo, perché anche io stavo guardando una cosa al cellulare, tu dici qua siamo nel 27555. Esatto, sì, su quella frequenza lì, capito? Si fanno i collegamenti, poi ovviamente ti sposti, però in banda laterale si viaggia parecchio. Sì, Franco l'avevo sentito solo una volta, la sera che insomma che c'eravamo in tanti collegati, e mi aveva annotato il nome, forse come Delta 1, se non sbaglio. Non ti ho capito, perché si sentiva, forse ti stavi spostando, il rumore del microfono, capito? E quindi le ultime cose, ho capito che Franco l'hai sentito e ti aveva dato qualcosa, poi non ho capito più niente. No, dicevo che Franco me lo avevo annotato sul mio registro, e avevo messo che come stazione era Delta 1, l'ho sentito solo una volta, non mi ricordo neanche quando, la zona me l'aveva detta e me l'avevo segnato, insomma era registrato ma non ci avevo mai chiacchierato. E lui è zona Sacro Cuore, capito, piazza Sacro Cuore praticamente, però ha un antennino basso basso, infatti in AM io lo sento bassissimo, capito? Eppure io al monte ci arrivo, c'è Luca, c'è Gianni, lui esce basso. Poco fa l'ho sentito perché era in banda laterale, capito? Era sul 27555 e là usciva bene, voce chiara, capito? Ma deve avere altri tipi di apparati a parte il CB. Eia. Ascolta, il come si chiama quelle tubo, diciamo, che stavi cercando, il braccio a L, l'hai trovato? Sì, trovato, installato, installata l'antenna, e ora mi stavo facendo i PL del cavo per collegarla e buttare giù il cavo, ma lo farò domani quello, per oggi non ci salgo più. Ascolta Luca, l'hai trovato da Fusaro oppure sei andato da altre parti? Da Fusaro a colpo sicuro, ho preso quello, ho pagato anche abbastanza poco, 15 euro, pensavo di più. Poi mi ho preso 6 PL e 15 metri di cavo. Va bene, ascolta, le misure per caso ce li hai di quel supporto che hai preso? Se non sbaglio la parte lunga è 30, allora il diametro è da 4, il diametro del tubo, la grossetta diciamo, poi dall'attacco sul palo preesistente e come lunghezza è 30 cm, ma ce l'hanno anche da 40 volendo. Ah ok, sì, infatti volevo sapere quello, se c'era più di 30, perché se lo trovo me lo prendo anche io, così stacco un pochettino la mia di antenna, se riesco a farla uscire un altro pochettino forse riesco ad avere un miglior diciamo segnale di stazionarie, capito? Se, perché c'è una parte in alto dove c'è il cordolo del tetto e se l'allontano un altro po' forse è meglio. Ascolta, guarda se riesci ad attaccare l'antenna su una staffa a L, però con diametro da 50, cioè 5 cm, è grosso come il tubo, quella ce l'ho perché me l'avevano data, però era troppo grossa per l'antennina piccolina che stavo mettendo, i cavallotti, no? Quelli a U filettati, no? Quelli lì non ci andavano su quella da 5 perché l'antenna era molto piccola, allora ce l'ho una, se la vuoi te la regalo, però non so se poi gli attacchi riesci insomma a utilizzarla. Perché se è troppo grossa magari non mi va bene, capito? Adesso vedo un po' insomma e poi eventualmente te lo faccio sapere Luca, capito? Se mi dovesse servire o meno, credo di no perché quella forse è troppo grossa, io vorrei una cosa meno anche visibile, capito, che sia di meno impatto visivo possibile, quindi più è sottile meglio è. Capa, se vuoi io domani me la metto in macchina così la vedi dal vivo e vedi un po' tu, al limite te la prendi, la provi e se poi non la usi me la dai e la metto in garage perché magari un giorno potrebbe servire comunque. Esatto, se proprio ti va eccetera gli do un'occhiata, capito? Adesso vedo perché mi devo prendere bene la misura, capito? Se mi dici che c'è anche la staffa che è lunga 40 è già qualcosina. Sì, non l'ho vista ma mi ha detto che misura vuoi, ce l'ho così, ed era mi sembra 25, 30 e 40 o 35 e 40. E forse così un 35-40, diciamo che forse va meglio di quella che ciò che ho organizzato io, capito? E me la sono inventata questa che ho adesso, capito? Però come ha detto Claudio, quelle palo palo si chiamano, sono meglio. Ma ripeto, io domani quando scendo intanto ce l'ho appoggiata in terra all'ingresso perché la dovevo portare giù in garage. Me la metto nel cofano e poi domani quando andiamo a fare colazione la vedi, te la prendi, vedi un po' se può andare bene, poi se non ti va bene me la restituisci, se no te la tieni senza impegno. E tanto mi basta vederla, capito? E poi su io come se va bene o male, vabbè, se non ti scoccia mettitela nel cofano e poco costa dargli un'occhiata, capito? E tanto non lo so Fusaro se è aperto di sabato mattina, penso di sì. Se non si hanno preso la malattia dei mandroni che chiudono di sabato mattina, così sono in quella zona lì e magari poi se mi serve la staffa più piccola eventualmente me la prendo. No, sono sicuro che è aperto il sabato mattina e ci mancherebbe. E ottimo, dai, vediamo un po'. Io adesso lo stesso, mi sa che scendo in garage, che come ti dicevo ieri ho degli strumenti di misura, dei dosimetri, e ne avevo uno bello della Diamond, adesso mi è venuto, ieri no, non mi ricordavo, della Diamond, ed è bellino, l'S100 mi sa, dovrei... lo devo cercare perché giù c'ho un sacco di cose. Fortunatamente tutto il materiale delle radio, fili, cavi, PL, tutto quanto ho messo dentro quei contenitori di plastica grandi che hanno il tappo per non riempirsi di polvere. Però devo un po' togliere un po' di cose e sistemare qualcosina. Così tu continui a fare tranquillamente. Poi nel caso, se ci sei, ci sentiamo tra una mezz'ora, dai, il tempo di scendere, salire, cercare e vedere un po' cosa trovo giù, perché anche io in garage c'ho un sacco di quelle cose che tu neanche immagini. Capa, sono qua, la radio accesa, a meno che non mi debba spostare nell'appartamento di fianco per mia mamma, ma altrimenti sono qua. Va bene, dai, ci sentiamo più tardi, Luca. A più tardi allora, ciao ciao. Capa. Ora. E Anna Benemeda. Bella, no? penso che sia una delle canzoni più belle di Sassarezza in assoluto. Io sono sceso giù, come ti avevo detto, in garage, cerca. Ho trovato il Diamond SX100 ed è, diciamo, ancora buono. Adesso dopo lo collego e vedo un po' se il ROS che mi dà la radio equivale a questo, vuol dire che quello della radio è affidabile, altrimenti non è affidabile, e quindi lascerò questo collegato. Io mi sto guardando Fly Radar 24, che la signora è partita adesso per Bologna, e mi sto seguendo il volo, adesso è all'altezza di Aiaccio. Ah, ho capito. Io penso che sarà un 4 anni fa, è partita mia figlia in Australia per un anno e ho seguito il suo volo, è partito da Milano, faceva Milano a Abu Dhabi e poi Abu Dhabi Sydney, l'ho seguito per tutto il volo. Ho anche dormito, poi mi alzavo, guardavo i progressi del volo, perché so quanto è lungo, io ci sono andato in Australia, e come forse te l'ho raccontato, e quindi so quanto dura il viaggio, anche se io avevo fatto Singapore, Londra, Singapore, Sydney. Quante ore sono di volo? cioè facendo conto che fosse un diretto, saranno minimo 14 ore di volo, penso. Diretto difficilmente lo trovi dall'Europa, fanno sempre scalo, diretto lo trovi o da Singapore oppure lo trovi dagli Emirati Arabi, capito? O dall'India, insomma, però devi fare sempre tappa. Io ho viaggiato con la compagnia inglese e ho fatto, siccome partner della Qantas, capito? E quindi avevo fatto il biglietto unico da Londra, Londra-Singapore, Singapore-Sydney. Quindi i bagagli li ho imbarcati a Londra, i bagagli li abbiamo imbarcati a Londra e li abbiamo recuperati a Sydney. E meno male sono stati efficienti. Ah, guarda, con quelle compagnie non sbagli, hai poco da... Si paga, però cercano di fare il possibile, anche se dovessero smarrire i bagagli, che prendono un altro percorso, li perdono in qualche aeroporto, tempo di 24 ore te li recuperano. E comunque io avevo calcolato Alghero-Roma, Roma-Londra, Londra-Singapore. A Singapore abbiamo fatto 4 ore di scalo e poi siamo ripartiti dopo 4 ore. E poi praticamente da Singapore a Sydney sono altre 7 ore di volo, quindi sono 7, 8, 15 e in tutto avevo fatto 17 ore, mi ricordo. Mamma mia, uno arriva a casa che non riesce più a stendere le gambe. Vabbè che quelli sono aerei comodi, ma 17 ore o 10 ore o quello che è, chiusi dentro quella scatola, mamma mia. E diciamo che abbiamo spezzato un po' il viaggio, dai. Londra-Singapore l'abbiamo fatto in 8 ore. Poi da Singapore siamo scesi, abbiamo girato dentro l'aeroporto che è grande, sono 4 piani di aeroporto, giù c'è il treno e ti collega al centro di Singapore, solo che noi non ci siamo spostati perché c'era bisogno del visto e quindi dovevi fare una fila, capito, e con 4 ore non ce l'avremmo fatta. Quindi siamo rimasti sempre all'interno, è pieno di negozi, proprio non ti annoi, capito? Poi da lì altre 8 ore di volo, capito? Però bene o male sonnecchi, dormi e quindi passa comunque quando sei in compagnia, 4 chiacchiere, nell'aereo ti puoi guardare i film e insomma ti stendi le gambe, ti puoi addormentare, abbassi, reclini il sedile perché c'è molto più spazio rispetto agli altri aerei, capito? Quindi comunque passa, non è così diciamo stressante il viaggio, capito? Sì, ti danno opportunità di distrarti, altrimenti veramente non passa più, però comunque 8 ore di seguito sono sempre 8 ore, è pesante. Lo so, però quando vai lontano è così, purtroppo è così. Altri viaggi per me infatti poi sono una fesseria, ho fatto tanti altri di viaggi molto, molto più corti e neanche mi accorgevo. Vabbè, comunque, tutti... Capito, e mia figlia, tornando al discorso di prima, l'avevo seguita quasi tutto il volo con l'Aida dal 24, capito? È una figata quell'applicazione. Buonasera, come stai facendo? Beh, un po' compresso. Un po' compresso? Scusi. Così sono compresso. Così non dovrei essere compresso. Ehi, abbassa un pochettino la potenza che ti senti meglio. E mi stai bucando la radio qua. Sì, ho dovuto usare il phone per farlo partire. A far culo, cazzo, intanto vengono le crisi epilettiche questo apparecchio qua. Ho fatto partire la ventola e si è ripreso a uscire in trasmissione, adesso sono con 10 watt. Tondi. Adesso vai molto meglio, 10 watt sei 9 più 40 qua, pensa tu. Sì, va bene, saluto neanche a coso. A Luca. Sparito, No, è che sta facendo delle cose e quindi a volte c'ha le mani impegnate e non riesce a già c'è Luca, c'è, quando è a casa c'è quasi sempre Luca. Ah, ok, andrà bene. Aspetta che attacco il coso, il macchino di Antonio, vediamo se esce questa volta. E beh, l'altro giorno stava funzionando bene quando lo stavi usando. E poi abbiamo dovuto fare le crisi epilettiche, quella parecchia, no, capito? Ho dovuto saldare, mezzo stampato, ho dovuto saldare. Adesso vediamo se funziona, aspetta un attimo che l'aggancio. Fai, poi chiama, già sono qua. Ah, ieri mi volevano mandare un pacco alle 3 del mattino, una dalle Stati Uniti, mi volevano mandare un pacco in dollari, cazzo, e voleva 500 per in cambio, io dovevo essere la banca. Chi sei, truffa? Sì, appena, infatti io te andavo a cagare, alle 3 del mattino. Va la matti, al ritreno di Manzano, uiaia. Se no va al telefonino, vero, capisco. C'è gente strana, amica, su Facebook, cazzo. Anzi, lui mi ci ha fatto andare a coso a... vediamo si chiama. Da un'altra parte, in pratica. Vorrebbe andare su Giangi, ha giurito, non vado, non devo andare da nessun posto, diretto. Allora andiamo... da un'altra parte, mi ha detto. Va bene, gli ho detto, aspetta un attimo che collego il coso, va bene. Bene, va bene. Cambia questa radio così sentiamo questa che ti ha dato Antonio se funziona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, sta andando bene, sia come segnale che come radio. Allora, il segnale di questo è 9 più 20 con picchi positivi, capito? Che diciamo vai a 9.30, capito? Radio non c'è niente da dire perché va bene. Speriamo che non faceva prima, faceva, adesso non lo sta facendo. Adesso è stabile. Così pare, vuol dire che sei riuscito a risolvere il problema e magari era fermo anche da parecchio, ho capito, e qualche saldatura magari un po' mollata, sai, molte volte basta rifare qualche saldatura e basta. E infatti, ho dovuto fare un bel po' di saldature, anche perché c'era il piano del come si chiama, mezzo curvo, capito? Dello stampato. E quindi come toccavi appena qualche filo cominciava ad andare in casino. Adesso visto che va stabile, già sembra che stia andando, se non li vengo di cussi, adesso lo faccio lavorare stasera, così almeno domani viene se lo ritira. Poi devo cercare anche una vita che me ne cago, se non mi ricordo, non riesco a trovarla adesso. Dopo già prendo la calamita, la zecco. Io mi ho portato su, ero sceso giù in garage, ho portato su il rosmetro della Diamond SX100, capito? E così mi controllo bene le stazionarie, voglio vedere se quelle che mi dà lo strumento diciamo rispecchiano quelle della radio, per vedere se quelle della radio sono affidabili, almeno io credo che dovrebbero essere affidabili, visto che insomma più o meno funziona tutto. Però lo tengo un po' attaccato, così anche questi strumentini, se li lasci giù al freddo, capito, un po' di ciclo di lavoro male non gli fa. Ah, quello sì, se lasci senza lavorare questi apparecchi qua se ne vanno sentiti. Io c'ho il rosmetro, funzionava una volta, adesso se metto a 10 watt me ne segna massimo 5, non ho capito perché. Ho controllato il trimmer no, e lo cambio uno di questi giorni, cioè, e così vediamo se il trimmer, a meno che non sia il diodo, il rivelatore, se c'è la fusata, si ricambia tutti e tre, magari a tre, quindi sono anche più sicuro per non sbagliare l'operato. E prima stavamo giusto parlando di Cusaro con Luca, perché si è preso una staffa di quelle palo palo, capito, per attaccare un'altra antenna sul palo dell'antenna della sua radio, capito. E anche io in passato ce l'avevo così, avevo l'altra radio dove c'era collegato il TRM, capito? Ah, TRM, già va bene. Oggi mi sono occupato il palo l'altro giorno e mi è piazzata l'antenna a mia nipote, la cosa. La Energy, la metto dove c'è il caminetto, vicino attaccata al caminetto, lo metto, tanto c'è il... gli metto una gaffa lì di piazza, anzi ho due di quelle gaffe piccoline, palo, muro, faccio i fuori e così gli piazzo due spezzoni di palo. Ho preso quello da 6 metri, figurati. E almeno parla anche lui a baraccino un po'. Ma è sempre lì nel palazzo tuo? Sì, quindi in pratica ci sarà un'antenna in più, se non riesco io che al condominio. E se no gli mettevi un'antenna, insomma, anche più piccola, già va bene, se non ha molte pretese, che lo usa per fare quattro chiacchiere. Io mi adesso con quest'antennino è già qualcosina in più rispetto a quello che avevo prima. No, già lì vedo quella lì, la B27L, è stato preso anche in V1, quindi già così utilizza l'apparecchio che si aveva comprato, simile al mio, il portatile. Quindi l'hai contagiato bene come passione? Allora, l'ho contagiato proprio bene, davvero. E beh, se gli hai insegnato tutto tu, e già va bene così, capito? Io mi niente, già lo sai che sono in ferie, e quindi in questi giorni ho qualche attimo in più, capito, in radio magari sto entrando anche la mattina, dopo pranzo, capito? Tanto io ce l'ho sulla scrivania vicino al computer, e quindi molte volte, insomma, è anche comodo, dai, non devo stare lì a alzarmi troppo. Ah, se ce l'hai di vicino è comodo, sì, io lo credo, almeno non ti devi affarare. Luca, ci sei ancora? Eccomi, che mi aveva suonato mamma, mi sono svoltato d'improvviso. Ah, ecco, io ho detto magari si è messo a fare qualcosa, ha le mani occupate. Ciao Luca, ben sentito. Ui, Antone, e allora? Allora, me lo appintendi, vedo, con questo panico qua. No, adesso sembra che stia andando bene. Adesso domani prendo e gli aggancio il microfono tuo, gli aggancio, e così almeno faccio due cose in uno. Antonio, guarda la foto che ti ho mandato. Non ho capito. Ti ho mandato una fotografia nel cellulare. Non ci ho fatto a caso, no, perché io diciamo il cellulare è tutto... Sono stato fino alle 3 del mattino a parlare al cellulare, figurati. Tra voi sento pagina strana, si trova. Ho pregato, ci sono mandati tutti e tre a cagare. No, te l'ho mandata in questo momento, se prendi il cellulare la guardi e capisci cosa ti ho mandato. Ah, adesso aspetta che prendo il cellulare così lo apro e guardo. Carlo, meno male che non me l'ho guardata la Coppa Italia ieri, ogni azzurra la Juve. Oh, ha fatto pietà. ha fatto pietà è perché mancavano gli attaccanti come si deve. C'è David che, per carità, capito, Illiz non ha giocato, Locatelli si sta dando da fare, ma capito, inconcludente la Juve, un sacco di occasioni ma non è riuscita a concretizzare, ha preso la traversa, ha mancato diversi tiri, occasioni vicino alla porta, nulla, non è riuscita a segnare. Poi hanno dato quel rigore lì, ha cambiato la partita, si sono un po' demoralizzati e insomma hanno fatto la figura che hanno fatto, però capito, pazienza, quest'anno è così. Spalletti io lo lascerei, perché comunque già è un buon allenatore, certamente che dovrà cambiare l'attacco e mettere qualche attaccante più prestante, capito? Attaccante che segni soprattutto, che sia opportunista, che Vlahovic è infortunato e rientrerà a fine marzo. Quindi ciao Penda e questo David, che due non ne fanno uno buono, capito? E quindi in quelle condizioni, poi se i gol non li fai, li prendi, sono cavoli loro. Ah, bellina quella penna per il scorso, quella bianca. Sì, le due lo stesso Paolo ce l'ha piazzato, già va bene. Così posso fare le orecchie di porco, Antonio. Sì Carlo, io non l'ho guardata la partita, ho visto gli highlights, peccato quella traversa che ha preso anche, però sì, Spalletti è arrivato in corsa, ora fa il traghettatore, l'anno prossimo si plasma la squadra, la sua immagine, e per me è comunque un grande allenatore, perché dovunque è andato ha fatto sempre dei bei risultati. Antonio, sì, è una B banda, e così posso fare le orecchie di porco. Già va bene, caspita. Io c'ho il coso. Ciao Gianni, ben sentito. Ci aveva della posso tranquillamente spostarmi in DMR, sono sul canale 7, figurati. E quindi posso fare anche io il porco. C'è uno basso, ma non ho capito chi è. Avanti Gianni. Buonasera a tutti, io più rudo da questa parte. Come va? Finito adesso di cantare, mi sono sgolato bene. Ah, cantenti, in questura? Ah no, io non canto in questura. A Giubbuco da cantare in questura, io sono tranquillo. E allora ragazzi, tutto ok? Sì, è tutto ok, non c'è problema. Andrà bene, sono contento. Mi sono sgolato, guarda, ho fatto l'ultima canzone, ho difeso il mio amore di Novari, lui a Bugheassa. No, è bello cantare, la verità, vabbè, io sono stonato, se metto a cantare se ne fuggono anche i cosi qua, figurati. No, già mi arrangio, però non sono stato anch'io stonato, qui piano piano la voce non proprio stonato, ma non andavo a ritmo, eccetera, poi piano piano ho imparato prima di cantare. Anche io non la canto adesso. Mamma mia. Bene, sono andato, Sassari. Avanti. Ciao Gianni. Quello lì mi piace. Una vita da Giubbuco su Manzano erudito. Conoscete? Sì, l'ho sentita anche io qualche volta quella. Era molto bella. Io l'ho fatta, però non trovo la base da sola, trovo la base con la voce guida. A me la voce guida mi dà fastidio. E ci vorrebbe solo la base allora, e non la puoi escludere. No, su Star Maker praticamente la canzone è solo quella lì, non ce n'è in altro modo, c'è solo con la voce guida. E non mi dà altro che fastidio, capito? Perché praticamente praticamente la voce guida ti precede prima che appaia il colore nelle parole, capito? Quindi tu ripeti quello che dice quello. Sì, esatto, esatto. Io stavo collegando, devo smettere un capito e già sta funzionando, e rispecchia gli stessi valori che mi dà la radio. E beh, quello mi ha detto le stazionarie a quanto le ha abbassate, Carlo. Guarda, non ho avuto tempo, diciamo, per uscire fuori, ma domani me le regolo. Infatti mi poco fa sono sceso in garage per cercare questo losmetro che è della Diamond, è l'SX100, capito, che è abbastanza buono come strumento di misura. Adesso l'ho collegato, così domani mattina quando mi alzo vedo un po' se riesco ad abbassarle, dovrei riuscire, se no devo staccare un po' l'antenna più all'esterno, quindi devo mettere una staffa un pochettino più lunga, capite, in maniera tale che vada più leggermente all'esterno. Infatti prima chiedevo Luca e mi ha detto che da Fusaro ce ne sono di diverse misure. Sì, Fusaro ce li ha. Quello lì per lo metterla sul tetto. Che casino. E adesso qua tutta la esagerare qua. No, adesso già, diciamo, in questo canale ho 1 e 3 di stazionarie, poi se vado verso il 40 allora lui aumenta e mi arriva a 1,8 o qualcosa del genere, però sono un po' altine, capito? Quindi se riesco a passarle meglio. Accorciare lo stup. No, dovrebbe avere, io c'ho 1,1 per delle stazionarie qua. Sì Marco, lo dovrò abbassare leggermente. Ciao a tutti, già abbiamo parlato assieme. Sì, allora, sei stazionarie sui canali alti, lo devi abbassare appena. E poi si riesce a bilanciare tra l'1 e il 40. Perfetto, buonasera a tutti. Ciao Marco, tu sei entrato in quarta. Beh, già, risolto? No, niente, non sono riuscito. Dovrò chiamare l'idraulico per spaccare tutto e cambiare lo scarico. Gatta, vai giù. E cosa c'è finito dentro? Boh, allucinante. Va bene, riprendi. Chi c'è qua? Luca, mi pare di aver sentito. Antonello, Luca, vai. Sì, un pasticcio è mettersi i muratori in casa. A chi più varo a 1000, spostare un sacco di cose. È un lavoraccio, però non si può convivere senza, non si può vivere senza lavandino. Come ti vai? Non puoi uscirci sempre al lavandino del bagno per sciacquare due cose. Io ci ho messo la bacinella grande sotto, poi quando è piena la svuoto dal vato e sto facendo così, ma non è che si riempie subito, è bella grande. Ma per il momento faccio così, poi devo trovare anche le mattonelle, perché non ho le mattonelle, e quello a me che mi disturba, non avere le mattonelle perché sono in vista, capito? Sì, c'ho il frigo, quello di quelli grandi, sopra le mattonelle dove devono, quindi devo spostare il frigo, un casino qua. E ti devi organizzare bene bene Gianni quando farai il lavoro. Ciao Marco. Beh certo, dove sono stato il tavolo, lui, caga. E allora il balconino, Condor. Se mi rompas, Marco si è allontanato. Allora riprendi tu, poi per girare per Luca. Via, sono qua. Vedo come fa vendere, si cava una vite, grazie. C'è un casino che sul tavolo. La calizza. Tassatori. Viti. Mi manca una vite piatta, grazie. Mi manca un attore. E poi ci deve essere sopra il tavolo per forza. La mattina comincio a fare pulizia, vediamo se è stata balla, se è in terra per forza. Capo, Andrea, tu ci avevi HP1000, l'HP1000 della ZG. Ce l'avevo voi? Quell'HP1000 che avevi smontato, ci avevi da parte. Perché a me mi serve, sai che cosa? Quelle cose che copre il tasto, quello rosso, perché fu usato, ma fottito. Ma l'ha venduto se c'è quel tasto rosso, mi dà fastidio. HP1000, c'ho le, come si chiama? I coperti che c'ho. Il pulsante, stai parlando della manopola, la manopola ce l'ho bianca io. Non le manopole per le guardie stazionali, cioè il pulsante che serve come accordatore, tu lo premi e ti accorda le stazionali, lo fai uscire fuori ed è normale. Ah, ho capito. Quello c'è nel modello 500, non nella HP1000. Per pulsante 75 di differenza, 75-50-50, c'è il pulsantino rosso, c'è. Poi tutto il resto sono bianchi. Perché lo stavo cercando, mi sono viva. Insomma, tu te l'avevo dato quel coperchio di quel microfono, non l'hai più usato. Delle M300 o il TM1000, non TM1000, vabbè, già mi hai capito quello con l'eco. Esatto, sì, non l'avevi piazzato? Sì, l'avevo piazzato e poi quando ho venduto il coso, con il 4000 gli avevo dato quel microfono a Davide Zuppi. Se l'ha andato in quel barattino, perché avevamo altri microfoni. Ma non sta entrando su? No, è entrato due o tre volte, poi non ho più sentito la verità. Sono qua, mi sto ascoltando. Ah, già sei qua. Ok, allora, già va bene. Meglio così, ma sei in passo però. Sei con la manta, ma sì, no. Il vento mi ha spezzato l'antenna, dunque sono rimasto con il primo pezzo. Stava l'antenna vecchia, volevamo la dato Tonino Kawasaki nel 92. Qua sei 925, ciao Danilo, mi hai sentito dopo tanto tempo. Non più buonasera a tutti. No, io vi ascolto ogni sera, io sono qua ogni sera, mi progetto qualche roba elettronica, con piacere vi ascolto. C'è lo stilo della Mantova Turbo. Sali su, stacchi le, come si chiama? Lo stilo vecchio della vetroverzina ci infili l'altro, insieme a quella bobina in alluminio. Non ci vuole molto, è che magari non è che le arrivi molta voglia di salire sopra il pezzo. Le tegole sono bagnate, sono scivolose, e in più peso 110 kg, adesso sono 1,80 e non ci posso più in buona bocca. Devo scogitare un altro metodo per salire. No, per l'estate ci metto la turbo, la Mantova 5. Quella che mi ha dato tu. La turbo te l'ho dato io, la Mantova 5. Dovevi sistemartela. Io te lo ricordo che avevo preso il fulmine della bobina interna. Comunque tutto il resto era tutto a posto, lo stilo era nuovo. Poi sto usando la LG 5 ottavi, quella che ho preso da Antonio Delta 1, e poi c'è un'altra LG 5 ottavi che adesso quella la piazzo a coso, a Giovanna. Devo fare i buchi, il palo ce l'ho già, lo faccio mettere i fuori e installarli, il cavo scende già a casa sua in pratica. Luca, stavo ascoltando, ma a Danilo Snoopy io ci modulavo a metà degli anni 90, io non so se si ricorda, allora la mia stazione si chiamava Aladino e io sono Luca, ciao Danilo. Già ti ho riconosciuto, buonasera. Sono passati appena 30 anni, già non è molto. Sì, 1991. in tutti quegli anni lì, sino al 2000, che poi ho cambiato lavoro nel 2000 e avevo spento tutto perché facevo un altro tipo di lavoro ed ero sempre in giro in macchina, ma non era macchina da mettere magnetiche. Sì, mi ricordo. Stai uscendo con un rumore sottofondo. Danilo, buonasera, Carlo da questa parte. Noi già ci siamo sentiti un annetto fa circa. Come te la passi? Tra una cosa e l'altra, sempre uguale, così così, però già tiriamo avanti, qualche acciacco fisico, però tiriamo ancora avanti. Va bene, dai, è importante reagire e fare sempre qualcosa, anche ascoltare e qualche volta sentire a salutarci, ci fa sempre piacere. Vai Gianni. Vabbè, lui magari fa qualche cosa mentre sta ascoltando, a lui fa altre cose. Come io a volte ascolto, poco fa mi stavo ascoltando, visto che stavate parlando di calcio, non sono entrati. No, è ma giusto un attimo, non è che ci perdiamo la testa con il calcio, no, mai si veda. No, perché io non so che cosa dire, perché non lo seguo proprio il calcio, non mi piace, non è una cosa che seguo. Mio padre già era un tifoso dell'Inter, Per carità, l'Inter. Ma il calcio, ma noi facciamo giusto qualche piccolo accenno così, anche qualcun altro di noi guarda qualche partita, ma senza essere troppo fanatici, ne parliamo così giusto quando c'è l'evento. Stasera gioca la Juve o gioca la Roma, capito? È solo lì, solo questo già, non è che stavamo parlando, anche perché in radio puoi parlare di calcio, già ne senti dappertutto, accendi il computer e trovi di tutto e di più. Ieri c'è stata la Coppa Italia, è per quello che stavamo facendo quattro chiacchiere. Ah, ma fate bene, se vi piace, io non sono entrato perché in merito non so cosa dire, sono ignorato in materia. Non so che cosa dire perché non lo seguo proprio, non mi la faccio nulla del calcio. Quando ero ragazzo giocavo anche a pallone e lo seguivo l'Italia eccetera, adesso non mi ispira più, non lo so. Riprendi i lupi se lo riprendi. Ah, io mi sto saldando, adesso vi ascolto un po'. Ok, dai, fai tranquillo. Dov'è? Riprendi tu. Già sono qua. Andà bene. Già funziona. Ok, faccio proprio, vabbè, ogni tanto già lo seguo, non tutti i giorni, ma già lo seguo ogni tanto.